coincido, va, ok. Ci sentiamo dopo se coincido, dai. Sono buona serata, buona continuazione, che mi ha chiamato mia madre che siamo giù a cena, va. Ci sentiamo più tardi se coincido di nuovo. Saluto le belle, ciao. No, ci vediamo, un abbraccio, ci sentiamo. Fammi sapere quando metti la batteria che facciamo le prove. Ciao, buona cena. Ciao, ciao, ciao. Attenzione Gianni Doppio Room, Gianluca ci siete? Ve lo sto attrezzando questo gelato, sono ramari. Attenzione Gianni Doppio Room, MCC, a Platamona, cambio. Gianluca, Gianluca ci sei, cambio. Come on. chiaro proprio, bella, bella radio. Ah, va bene, vediamo un po' se era rimasto qualcuno, magari ci hanno anche rilanciato, ma... Mamma mia, se c'era Giampaolo, qualcun altro, Claudio. Ma se l'ha nessuno è rotta quando sono fatto io. Ok, va bene. Ma non c'è a mangiare. Ho detto che ne sono, non è 9, sono già. E vabbè. Già, ci siamo un po' rilassati, là. Se poi si fa la calce. Adesso sono qui al Viaggio Verde già. Ascolto sempre, dai, adesso sono in un fosso, ma penso che come salgo ti ascolto ancora più forte. Sì, ho capito. Io adesso sono qua, diciamo, vicino all'incrocio della... dove c'è il Conad. Dai, qui ho detto un po' di... come siamo già fatti un po' di problemi che le danno, ma su strada lunga vanno bene, dai. Su strada aperta vanno molto bene. Sì, io non ho già copiato benissimo, l'ho copiato al 100%, tranquillo già, adesso già sono più aperto qua. Allora, già va bene. E poi con l'apparato va bene, dai. L'apparato è riuscito. Dai, sono arrivato alla mezz'ora. Ci sentiamo casomai a casa, dai. Viaggiano, dai, ci sentiamo. Io sto su 10, se vuoi chiamare, sto viaggiando ancora. Ok, già, ti ricompiato, dai, ritorno a casa, ciao, buonasera, buonasera. Ehi, ciao, Gianluca, ci sentiamo, buonasera anche a te, ciao. Ci sono 50.000 cose. Ma adesso è bella piena, cazzo, adesso è bella, la modulazione va bene. Prima parliamo una radiolina chiesa. diverse. Ma io veramente non prendeva, non prendeva nulla. Staffa, come segnale come sono da te, Antò? Giusto per regolarmi con il vantaggio, ok? Adesso sto uscendo proprio con il minimo sindacabile. No, adesso va bene. 9.25, sì. Ok, sto andando con l'antenna. Dimmi una cosa, se adesso io cambio antenna, allora da così a così, con questa antenna come ti sta arrivando? Dovrei essere sceso un po'. 9, è poco fa 9.25. Che antenna è quello là? Sì, questa è la KF, questa è l'antenna che utilizzo per le bande amatoriali. Ed è da sistemare ancora un pochettino. Naturalmente questo fine settimana finalmente riesco a, tempo permettendo, a sollevare l'antenna e a sistemarla definitivamente. L'altra, il passaggio di prima, l'ho fatta con l'antenna dedicata per la 27. Cioè, facciamo una bella differenza da 9 a 9.25. Ecco qua. Vabbè, scusami un attimino, che sono arrivate le pizze, ci sentiamo tra 29 minuti, una mezz'oretta se ci sia ancora. Ma non ti preoccupare. Ok, ce la risentiamo, Fabrizio. Bambini. Fabri. Dimmi. ciao Tino. Per me è troppo amplificata, Bravo, ditemelo. 65, guarda così, come ti sembra che vada, a parte le voci qua che fa un po' il cazzo, è una bestia. Guarda un attimo in alto, come ti sembra che stia uscendo. Ah, ti porti dietro rumore di fondo. E abbassata ancora, guarda adesso un pochettino in queste condizioni qui, come ti sembra, 1, 2, 3, prova. No, lasciala così. Cosa vuol dire lasciala così? Hai appena appena di reverbole sotto, Aspetta che abbasso una cosa e dimmi se va meglio, Guarda, adesso abbasso, guarda, abbasso un po' il coso del processore, guarda, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 70, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come ti sembra? Ma per me non ha cambiato niente. Abbassa ancora, era 85, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, e ancora qualche rumorino sotto, la radio è buona, è radio 5, però ti porti dietro una sorta di rumori, capito? La ventola, forse mi sono allontanato un attimo dall'apparecchio, forse la ventola. Guarda adesso come ti sembra. No, è buona Fabri, è buona, come radio è buona, è forte, bella, squillante, però non credo che sia il rumore di ventola, perché la raccoglie troppa. Aspetta che chiudo la porta, magari. Ok. Allora, 1, 2, 3, prova, quello cos'era qua, guarda un attimino, 1, 2, 3, prova, dimmi, no, però posso regolare un po' di cose, ma ancora devo, qui sto facendo un casino, c'è bambini. E vabbè, io ho la TV qua accesa. Comunque la radio è perfetta, In confronto a come uscivo prima, ci ho potuto fartelo vedere comodo, sto provando un'altra radio. Volevo vedere in confronto, anche se non è radio da M, però volevo vedere un attimino, ho fatto un po' di tarature, di. Sì, c'è un casino, ho sentito Salvatore. È squillante, mezzi bassi, troppi alti, troppi medi, come ti sembra? Era italiano. Per me va bene, hai appena appena di alti, ma è bella squillante, è forte come radio. Italiano. Per il mio parere va bene, però non mi piace troppo. Capito, te lo devo dire sinceramente, l'altra era molto molto molto superiore. Giappa va bene, però non mi piace troppo. C'è stato un break avanti, altra la modulazione troppo bassa. Grazie Antonio, grazie agli amici che si sono in rotta da questa parte, Antonio Grotte. Credo che ci sia anche un amico che stia chiamando sotto, se permette te lo faccio entrare. Avanti l'amico che chiama gli italiani. Buonorba, pazzo di Gennaro. Aspetta un attimo Gennaro, Tino, ciao Grotte. Guarda un attimino se cambia qualcosa così, guarda, adesso continuo a contare. 1, 2, 3, 4, adesso vado a cambiare sulla parte alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Come ti sembra ora? Guarda, si è cambiato, non si sente quasi niente, Fabri. La radio è forte e squillante. Anche i primi 4 che hai detto per me andava bene. Aspetta, Abbassiamo qua 2, 5. Aspetta, sugli altri posso aumentare un po', credo così, ok, guarda, no, aspetta, sto facendo casino, livello, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ti sembra che abbia migliorato la parte alta? No, abbassa, hai peggiorato. 1, 2, 3, 4, 5, peggiora 0, ecco, ok, 1, 2, 3, 4, adesso ti faccio un passaggio, questo è il primo passaggio e questo è il secondo passaggio, come ti sembra? Il secondo, senza ombra di dubbio, la parte mia è più perfetta. Allora ti rifaccio in questa maniera, allora questo è 0, adesso lo porto a 3, 1, 2, 3, 4, guarda il altro passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come ti sembra? Fabri, leggero, ma proprio quasi niente. Vabbè, così quindi va bene, dai. mio orecchio sì, alla mia radio idem. Memorizziamo per il momento, questa è un'occasione regolata. Ho già anche troppo, me l'ho fatta a orecchio senza i corrispondenti. Va bene, grande, vieni avanti per salutarti, dai, che ho questi bambini che stanno impazzendo qua oggi. Meno male che un po' di educazione c'è, uno brecca, entra, saluta, boh, finito. Oh, io, io. Beh, sentite comunque gli amici che ci sono in Roma, dai. Sì, stai uscendo bene, c'avevi un retro barattoloso prima, però l'amico di cui non ho copiato il nome d'attivo non ho copiato bene chi fosse, ti ha dato ultimi consigli. Aspetta, ma scusa Fabri, io devo andare a prendere se ti ho lasciato in bianco, perché stavamo facendo le prove da poc'anzi con Fabrizio. Vabbè, vi lascio, dai, anche io devo conservare il bimbo. Ti muscolo comunque, ciao a tutti, buonanotte. Ciao Tino, buonanotte, adesso anch'io vado un attimino a prendere il bimbo, un attimino, perché mi fate che c'è un amichetto e quindi stiamo facendo casino, così dorme qua, per l'accesso. Guarda, come ti sembra questa radio? Aspettate che avete parlato in due, non ho capito niente, né di uno né dell'altro, Fabri, vai avanti tu. Allora, detto ciao Tino, e adesso devo, anch'io vado due secondi e vado a mettere alle tue bambini che c'è un amichetto di mio figlio che dorme qua oggi e stanno distruggendo tutto, un casino nero, quello che piange, quello che grida. Guarda, come ti sembra che stia uscendo così, uno, due, tre, prova, come ti sembra questa radio? Stavo dicendo a Tino che non c'era problema, assolutamente stavo scherzando, ma è un rapporto di amore e odio che c'è con Fabrizio, quindi ci mancherebbe. Mi sentite e ben ascoltato anche da parte mia. E come stai uscendo? Ti ho dato degli ottimi consigli, Tino, però stavi sì, un po' barattoloso, non so se è dato dalla stanza piccola che è intorno o dovrei sentirti meglio un attimino, dai, vieni avanti di nuovo con la modulazione e ti dico. Allora, vado un attimino, se non lo posso, se la parte bassa, io scendo e tricchi tricchi tricchi tricchi tricchi tricchi, forse qua, aspetta, ecco qua, cuffie uno. Allora, guarda, io adesso tu mi devi dire come ti sembra, da questo passaggio qua, se la parte barattolosa tende ad andare via, guarda, 1, 2, 3, 4, adesso aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cosa è successo? Non uguale, leggermente di più barattoloso. E allora qua sto diminuendo, 1, 2, 3, 4, diminuito un pochettino, come ti sembra così? Leggermente, ma proprio quasi impercettibile, è diminuito. Allora diminuisco il livello, guarda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 7, sono sceso a 3, come ti sembra ora? Invariato. Invariato? Allora fai così, aspetta, poi faccio così, lo metto a 200, aspetta, la campanatura. Guarda, adesso sto chiudendo un pochettino, ho chiuso un pochettino, come ti sembra che abbia migliorato? Attivo, c'è sempre questo cuppo barattoloso strano. Cuppo barattoloso strano, cuppo barattoloso strano. P1, ma questa è la parte bassa, se la parte bassa, livello niente, questo. Aspetta, facciamo così. Così come ti sembra, come sto uscendo in questa maniera? Il cuppo compresso e barattoloso, proprio sembra. È presente quando hai troppi. Troppi medi, ti mancano un po' di acuti, proprio la modulazione un po' più aperta dovresti avere, capito? Vedi di uscirne un attimo. Allora, adesso sono così, questa è la parte media, mi è toccato la parte media, giusto? Guarda un attimino così secondo te è aumentato qualcosa sulla parte media o ha peggiorato? Niente di particolarmente rilevabile, dovresti, secondo me, il mio parere, allontanarti innanzitutto dal microfono leggermente, prova un po'. Adesso mi sono allontanato dal microfono, ecco qua, guarda qua, adesso aumento un attimino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si è cambiato qualcosa? Leggermente meglio, si è un po' schiarita. Ecco, adesso ho aumentato ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come ti sembra? Vado a dargli tutta a canna un attimino, e poi facciamo dall'alto al basso. Adesso qua, sulla parte media sono tutta a manetta. Adesso dovresti aprire un po' di più gli acuti. Avanti. Allora, guarda un attimino gli acuti, adesso vado ad aumentare. 10-12, adesso sono diventato un po' gli acuti, come ti sembra? Però sembra quasi che sia al limite dell'innesco, vai di nuovo un altro po'. 1-2-3-4, aumentato un po' gli acuti ancora di più, come ti sembra? Sicuramente è meglio, ti stai aprendo in modulazione, però se c'è sempre questo effetto barattolo strano, non lo so. Aspetta, questo è guarda, così se io chiudo un pochettino così, che cosa succede? Adesso che cosa è successo? Sei particolare, però sei al limite dell'innesco, su ti sta iniziando a fischiare. Allora, fai così, aspetta. Level, che così, ecco. Così penso che vada un po' meglio, giusto? Conferma K. Poi, questa è la frequenza, guarda questa frequenza, adesso, io adesso faccio, guarda, 1, 2, 3 prova, primo passaggio, 1, 2, 3 prova, secondo passaggio, e 1, 2, 3 prova, terzo passaggio, quale ti sembra meglio? Guarda, incupire e passare la voce dal primo al terzo. Quindi così il passaggio è quello che ti piace di più, giusto? Affermo. Quindi così, scusa un attimo, che così quindi che me lo potrebbe andare, giusto? Va bene. Adesso sono anche in cuffia e ti sto sentendo decisamente meglio, dai. Vabbè, dai, io faccio un attimino di quel rex perché devo mettere a letto i bambini. Lo cerchino che c'era nel canale. Il filone che c'è sul canale 10 si faccia avanti, cambio. Così in fretta per i miei figli. Perché ti sei dove di basso, tu? Mi sono lontano dal microfono, allora vedere se adesso sono più forte. A dire Roger, chi è che c'era anche da Bonorba? Attenzione, è Gennaro da Bonorba. Fa bellissimo, Marco. Ma sì, che ti ascolto, da questa parte di grotte, dai. La tua modulazione, chiara, forte, è con eco. Dai Roger, KK si sente. 9-10, radio 5, dai. Vai Roger, prenditene un'altra che fai bene, sono dispesi bene. Attivo, negativo a strike, negativo. 197, napolitano. Pagava e Cava Roger, come sta arrivando tu? Guarda un po', ola, sono compresso. Meglio di così. È la modulazione un po' di volte, non è perché ti compresso, non è perché compresso il microfono, no. Ola. Guarda un attimino come sto uscendo adesso, la ringhiera. Un robot se pare. Oddio, non ti sentono, per forza non lo senti, non c'è Claudio. A trovare qualcuno che mi carichi quelle due bombole da 2 litri. Ci mette 15 secondi. un'ora e mezzo non sarà cazzata più grande di questo mondo, capito? Ma sono flessibile, capito? Ascolta una cosa, ma come va la bombola? Come c'è l'attacco? Normale avvitatura oppure entra la, il regolatore? Cioè la bombola c'è la femmina e il regolatore entra dentro la valvola? C'è l'aggancio classico, quello classico di tutte le bombole, poi ne ho anche come quelle che stai dicendo tu, che sono della liquid gas, però io sto dicendo quelle della butangas normale con aggancio da che cos'è, un mezzo pollice, cambio. Ah, certo, cioè, allora, quindi a quello attacca la levata normale. Pappa di rogio. Ci mette 30 secondi a bomba. Esplode però. Sono molto, tra l'altro sono uno di quelli molto esperto, sono proprio per caffè, niente cose. Hai spesso che cosa? Se ti facciamo mille problemi per chiedere queste due domolette che ci vuole cazzo minuto. Ho fatto una cosa, cazzo, non te la vuoi riempire. Ma non gli ho detto questo. Gli ho detto portamela la mamma che vediamo. Non gli ho detto queste cose. Io già non so come bisogna farle, però adesso te l'ho detto proprio giusto giusto, te l'ho detto. Però non va a arrabbiare a nessuno, hai capito? Ti prego, tu. Crode. Crode, cosa stai cenando? Ma, e se vuoi sapere una cosa, la miscela tende a essere gialla, il profano tende a essere bianco. E che ti ha detto questa storia? Lasciamo perdere, va. E c'ho anche la pressione di uno e la pressione dell'altro. Non so quanto c'ha una bomba di miscela quanto c'è una bomba di profano. E quanto perde anche dopo che gli viene usata. Immaginiamo che se non lo so. So che a dirlo non dico mai niente, capito? Oggi te lo metto, oggi fa farti capire che non sono profano, hai capito? Però no, di solito non dico mai niente, perché te lo sai. Vabbè, comunque si sa che profano è la miscela più raffinata, più pressione della miscela, che quella è normale, no? A quanto arriva il profano? Ma dipende, a periodi alla bombola piena sto parlando e dopo perde. A periodi arriva anche a 8 bar 9, a periodi arriva anche a 7. Poi dopo a bombola piena, dopo scende anche a 6. Tu fai conto che una bombola 15 di miscela arriva a 3 e poi arriva a 2, 2 e mezzo. A volte anche a 1 e mezzo a metà bombola. Sono fatte così, sono fatte. Vabbè, ma difficilmente il profano ci arriva a 8, a bombola piena, è molto assoluto. Dipende, guarda, è a periodi, a periodi a 6, a periodi a 5, va. Dipende, perché io non lo noto, alcuni periodi, cazzo, io alcuni periodi c'era anche a 8, ma non mentre salendo, anche a 8. Alcuni periodi l'ho visto salendo a 6, ma quelli lo sanno. Io me ne accorgo perché quando vado a aprire a bombola piena ci sono in mano quei cazzo di manometri, io me ne accorgo da quanta pressione hanno. Vabbè, quello è anche dovuto alla tipo di raffinazione, ossia che il profano è più raffinato, per quella più pressione, però quello dipende dal tipo di raffinazione che fanno, ecco perché ci sono delle variazioni di pressione. Una bombola viene data da 29 a 30 bar di tenuta, Sì, di tenuta sì, sicuramente. Sai già quanto va. Io non so che settore lavori, tu mi hai detto che non lavorato nel settore del gas, però già lo sai, anche un regolatore di un'apparecchiatura di cucina è così stesso, una resistenza tra i 29 e 30, la massima è 29 e 30, manco per l'anticamera. Quant'è che resiste un normale, come si chiama, normale regolatore di miscela? Di miscela, un normale regolatore non specifica se miscela o cosa, un normale regolatore è 320 e 30 bar, dovrebbe tenere, però 20 o 30 bar no, la bomba non se la darà mai. E secondo te se tu attacchi 30 bar a un normale, regolatore, secondo te lo tiene e non crepa la membrana? fesserie. Ma nessuna bombola arriva a quella potenza lì. E quello lì ne sono certo. Vabbè, però tu sai che adesso i regolatori per legge stanno uscendo già tarati, non c'è più la rotellina per regolare la pressione. No, lo so benissimo che no. Scusami, ma ho trovato che sì, lo so, non si possono più usare, non si possono. Quelli che dalla ditta li svendono ancora, perché io li compro ancora qualcuno così, che le tutti rompe le palle, le vuole così. Però quelli che ti dà la ditta, per esempio la fiamma, la tipi, come sia, quelli che per loro sono proprio a norma, sono quelli a taratura fissa, come quelli della stufa, uguale, senza taratura variabile. Poi la parte dal coso, solo che la niente è un poco particolare, cioè la parte dal, come si chiama, dal piano cottura, parte da dietro la fiamma, solo che un po' di niente sono fissate, sai com'è. Io nel mentre sto crollando un po' di resetup, cosa tutto si può fare con questo. Tra l'altro ho scoperto anche una cosa incredibile. E che cosa ho scoperto di fantastico? La cosa incredibile è che, vabbè, non l'ho scoperta io, leggevo su internet, mi stavo documentando, che in pratica il supporto di studio, i tecnici della IAESU, in realtà hanno messo su per questa macchina, ma anche per altre apparecchiature, set di istruzioni così tante, così variegate, che non tutte sono state documentate nei manuali ufficiali. Poi peraltro anche nei manuali ufficiali sono stati fatti degli errori di trascrizione di alcuni nanocomandi che possono essere utilizzati per, ad esempio, realizzare dei programmi ad hoc che mandano direttamente, dialogano con il processore della radio, mandano delle istruzioni. E tra i tanti comandi ce ne sono dei set che permettono di utilizzare una combinazione più spinta dei vari filtri e quindi, insomma, tirare fuori ulteriori performance alla radio come se non ne avesse abbastanza. È bestiale, è incredibile. Chiaramente queste sono tutte istruzioni che devono essere mandate con un computer. E c'è la scala di errori nei manuali, infatti molte volte guardi quelli in carta, poi vai sui siti e ritrovi delle variazioni, c'è la scala degli errori. Sì, i più macroscopici che stavano documentando era, ad esempio, in alcuni nanocomandi che riportavano nel codice esadecimale, ad esempio sbagliavano nella stampa e mettevano, cosa ne so, la lettera Y ad esempio, o la lettera M o N, cosa che nell'esadecimale non esiste, perché le lettere sono dalla A alla F, no? Quindi la combinazione di numeri, tutti i numeri e lettere sino però alla F, quindi FF sarebbe quella più l'estrema, 00 da 00 FF. E quindi c'erano alcuni comandi che in pratica non potevano neanche essere digeriti dalla macchina stessa perché non potevano corrispondere. E bestiale, accidenti, hanno scoperto questa cosa qua e insomma, ovviamente gente molto più avanti nell'utilizzo di queste radio. Comunque, riprendi pure e poi fai girare. Ma cos'è usina HF? Anche direttiva è possibile, oppure sono con la verticale che lavorano? Solo con la verticale. A direttiva niente? No, negativo, non ho neanche molti spazi. No, ma sono contento perché ieri ad esempio a tarda notte c'erano questi radioamatori che stavano facendo una gara tra loro per vedere chi riuscivano ad agganciare più lontano, eccetera eccetera, e ho visto tutto sommato che riuscivo a sentire i corrispondenti che loro stavano agganciando. Quello più lontano in assoluto era questo brasiliano ad esempio, che io sentivo discretamente bene lavorando con i filtri, mentre uno di questi due stava lavorando anche con una direttiva, stava faticando a tirarlo fuori, mentre ad esempio quando gli sparava, ma stava andando mi sembra con 2 kW, sparava a corrente, questo che aveva un 4,50, questo brasiliano, riusciva a sentirlo, ma ovviamente. Però non è sentirlo, magari lo senti perché magari se stanno sparando 3, 4, 5 kW, per quello sì, magari tu lo chiami e non ti sente, e allora anche che stazione stia ascoltando. Beh, infatti comunque è sempre deve esserci anche un certo rapporto, perché non è solo a mandarla la corrente nell'aria, poi bisogna riuscire anche a sentire e sperare che chi dall'altra parte ti ha sentito abbia una dotazione sufficiente per riuscire a farsi sentire a sua volta. E questo comunque con 4,50 stava andando con 100 watt e si sentiva discretamente, a me ad esempio arrivava con un Santiago di 8, e io non ho problemi, cioè l'antenna mi sta lavorando bene, ecco, anche se non è una direttiva. Sì, però devi fare anche il rapporto in lontananza, tu trasmettendo dove puoi arrivare. Magari tu li senti, ti ripeto, perché ci sono stazioni che sparano anche 5, 6, 10 kW. Praticamente l'altro giorno una credo era dall'Argentina, stavo uscendo con 7 kW, arrivavamo per 30 qua, in 20 metri, era pauroso. E gli altri li sentivo 4, 5, 6, e non c'era molta popolazione, però arrivava da paura. Allora, 10 kW. Chiaramente, poi chi più ne ha più ne metta, e chi ha il portafoglio più lungo lo sfrutti. Scusate, poi andiamo a Antonio, ma poi questo qua è un traliccio di 40 metri con una quadricubica, quindi pauroso. Se riesco a trovare la sigla, se non ce l'ho buttata, perché sono andato sul sito, ma devo vedere stazione da Paolo, come hai detto tu, stazione di là molti, ma torretta da 40 metri con una cubica 4 metri a paura, e poi affianca questo traliccio da un altro di 30 metri con 3 direttive, cioè un impianto a paura, capito? Avanti al tuo uomo. Sì, impressionante, ci sono tanti americani, anche a più 20 o 25, e come ha detto Salvatore, di divergiamo, capito? C'è passione e molti soldi, allora ti bizzarrisci e ti spaventi. Io ho visto una stazione in Germania, l'anno scorso un nucleo di là, che è un amico di un mio amico che è creato da tanti anni, mi ha portato a casa sua, in periferia di Stoccarda, a un terreno di 3 ettari con la villa, e di 13 ne può essere 5, ma cioè paurosa, cioè io penso che lì tra una cosa e l'altra ci siano 400-500 mila euro, tra bici, antenne, tanto la stazione, le tante del radio, è da paura. Situazioni così potenti, roba da amplificatore che hanno sotto. Ma per dire, c'è quello che è, immagina cosa i soldi che c'è quello che c'è la passione, diciamo, delle barche, spendere tanti soldi delle barche, c'è quello che la faccia delle macchine d'epoca e spende, c'è quello che è malato e gli piace la radio e spende l'anima di su di radio e si vede magari stanze di 50 metri qua e piene di radio e lui se le vede tutte lì, magari non li usa mai o li usa raramente, però se le vede lì e dice che i soldi fanno la guerra. Non lo so, state le magie a buoni il 27 è una volta in statale. Ma ci sono anche stati americani, io tanti anni fa le collegavo gli americani che in 27 hanno fatto a centinaia di collegamenti con molti stati d'America, ma avevi i corrispondenti cazzo che tra 10, cazzo uscivano 10 kilowatt in 27, cazzo stazioni da paura, c'è quello che usava di antenne, una trasmissione rodata dai ma dai soldi, se c'hai soldi è inventivo, è passione, fai l'impossibile l'immaginabile, c'è gente che abita in periferia, c'ha 2-3 metri di terra, e mette tralicci, poi di fuori che fanno una parte all'altra, c'è fuori, capite, tutto lì dice, è passione, molti soldi, avanti Salvatore. Ciappa. Mi è sembrato che volesse entrare qualcuno, avanti chi vuole entrare. Pronte, non c'è più pronte. Se non si addormenta ha bruciato il malattino. C'è un problema anche chiamato. Vito Salvatore, è così, io quando ho questa stazione in Germania, mi ha trovato sono lì, qua se andiamo a trovare un mio amico, un mio invitato, che ti faccio vedere una cosa che ti piace. Cazzo, Salvatore, sono andato in shock, io ho visto in radio. Cazzo, ma questa stazione è paurosa, una stanza di 50 metri quadri, tutta con le scrivanie, sopra i soffà, tutta fatta a regolare, e tante di quelle radio da sedersi in mezzo alla stanza e rimanere a bocca aperta. Cioè, cazzo, vedete anche 200-250 stazioni HF, capito? Chi vuole che la via spiegati, a Icon, gli AISU, poi lineari, cazzo, ricevitori antichi, americani, cioè, da una cosa, cioè, scioccante, capito? E poi usciti in giardino, 5 tralicci, ma 40 metri, con tutte direttive, poi di fuori andiamo da una parte all'altra, cioè fuori, cioè, scioccante. Le passioni sono queste anche, passioni e una disponibilità per poterle coltivare. Io penso che come ho preso questa nuova di radio ho già subito messo in vendita il 440, penso un po'. Sì, è così, di ciriale, c'è come la è però c'è anche problema, perché c'è propagazione, pari, fai collegamenti, però dipende anche dalla telegrafia, perché se tu magari c'è la preparazione che ascolti magari lui con l'antenna con le controcalle l'ascolta a 5 tu non ascolti, capito? Invece se c'è preparazione che ascolti lui ascolta a 20 tu magari ascolti a 7 e non ascolti, capito? Se non vediamo tre volte non c'è propagazione, l'antenna fa differenza, perché cazzo io non ascolto e quello magari ascolta a 65 e quello di determinata situazione fa collegamento, c'è problema. Però c'è tanta popolazione, è quello che non è perché lo fa anche con un pezzo di filo con la radio. Beh, certo, adesso sto guardando dei cluster. Beh, ce n'è uno a Macao. Sta facendo chiamata sui 70030. Adesso mi metto il secondo ricevitore, voglio vedere se lo becco. Ci fermano? 40. Ah, ok. Il prato c'era che ho per parte, anche gli cinesi, se mai stanno intrusi. E io sto usando un disporo, e poi andando lì, per dire. Figuriamoci se scendo giù nel mio cucchia pettino, dove c'ho le direttive, e se mai la paura sicuramente. Perché sono con la perda, di fronte al mare, sono in collina, quindi cazzo è pauroso. E questo dipende da cosa metti nel tavolo, di là, e allora ti puoi fare di più, capito? È una cosa, tu lo fai, spose carissimi, direttive da 5-6 mila euro e ti basta. Voi c'è quello che c'ha il certificatore di aria preso anch'io, tipo fuori. Ma devo dire, non abbiamo mai sentito l'armare. Prego. Avanti. Ciao, da questa parte Fabrizio, saluto la volta. Un attimino Salvatore, se può fare questa greca. Buono Fabri, sono qua a disposizione, tanto sto facendo prove su prove. Dimmi caro, dove? Anch'io per non disturbare, passa sul canale 1, va, scusando gli amici della ruota. Sì. Dimmi. Sono scelgato, l'altro giorno ho fatto di essere, stavano con dei fini, che vanno a salire del Veneto, mi dicevano che mi fosse la Venezia. Ho detto, Fabrizio, ma tu sei Fabrizio Chirigatta? No, non sono io Fabrizio, è un altro Fabrizio che muove qua da Sassari. Ah ok, comunque quando me lo senti salutalo, adesso stiamo cercando il nominativo, scattano, lo sapevo uguale. Ho visto dove mi conoscono, che tu non pensavi mi hai aspettato. Vabbè, se ci parli normale, anche a me, cazzo, se fai 10 mi conosco perché è collegato. Ho ricordato il radioamatore, stiamo cercando stato la sigla, dove è stato la valla, la linea vuota sulla 27650 in LSD. Ogni tanto lo sento, ho qualcuno lì. Se lo senti salutalo da parte mia, dai, faccio questa greca, grazie del saluto, io faccio sull'uno un attimino. Vabbè, dai, noi siamo qua, avanti, a tu. Non ti ho mai sentito la tua copia testa. Ma io, come tu lo sai, ci ho lasciato, ti sarei avuto fatto il collegamento da su, tipo, oltre il 40, però come lo sento, poi c'è un amico che è di più in Bazzonella, di Amarrica, che c'è la stazione, di solito facciamo sempre i diversi insieme, capito, in tandem, perché mi appoggio alla sua casa postale. Sì, lo siamo, lui ha preso una direttiva, una 520, però esclusivamente per la 27, esce il convertito, infatti, c'è un 450 alla Stingwood e poi anche la parecchiettina. Ma la 50 è una grande, cioè, io lo so perché se rimango più in alto, sono più in collina rispetto a lui, per quello che vuole male, però ce l'ho fatto per quello, a fare un po' di conferma, poi ci divertiamo, io non ho fatto i bei collegamenti. Sì, c'è la mattona 1 giù, c'è la mattona 1 che c'è 30 anni piazzata, capito? L'anno scorso l'ho smontata per pulita dopo 30 anni, era tutta ossidata per il salato, però io da tempo l'avevo piazzata, avevo fatto tutti gli accorgimenti, per aggiuntire ho fatto tutta la nappata con l'acqua normale, il pulso per l'acqua vulcanizzante, e dentro prima di vulcanizzare di meglio verso il grasso, nelle fascette, poi dove attaccavano i radiali lo stesso di tutte verso il grasso, poi tutto siliconato e poi ho fatto tutto il giro dell'altro vulcanizzato, tutto senza risparmio. Tutto così oppure l'ho tutto attaccato e smontato la scossa, per togliere il naso, ho utilizzato la taglierina, ma tutto, sotto il naso era tutto lucido, come se fosse il cazzo fatto per la sera, era tutta vicinata, un po' di benzina, passava la brasa un po' di brasina, tutta vicinata è stata nuova, poi ripiazzata, allora non ho mai avuto problemi con l'antenna. Ma tu mi hai detto che mi avevi sì, ce l'ho sempre, ce l'ho molte, tutte le prime, perché all'epoca io con un amico che ce l'aveva da mattina avevo comprato uno stock di roba, diciamo di un'attività che era chiusa, quello che c'è stato in realtà era stato un grande stock, di così avevo preso due, tre io, poi avevo preso delle direttive per la 27, poi avevo preso la macchina, poi avevo preso la telecamera per la HF, molte le tenute e molte le ho fatte fuori, perché ho avuto a delle tre di ogni razza. Anche non te la piace, ho dato la cosa la tua gamba, perché non te la muovi, ma ti ripeto, qua non me la frega niente, basta questo di fuori, ormai te la piacerà, la faccio qua, no? C'è la casa, ho capito, metto la faccio ascoltare, faccio la ascolto, perché c'è una licenza, però ti ripeto, no, non mi interessa anche accendo, se non c'è niente, va. Perché giù sono attrezzato, perché quello che c'ho non mi rompo i coglioni di nessuno, possono essere quello che voglio mettere a parte quanto voglio. Infatti là c'ho 600 di licenze, con due direttive, una 520 per HF che fa 20, fa 20, 15 e 40, e poi c'ho una direttiva 420 per la 27, c'ho la 91, poi c'ho un dipolo per la 27, e poi c'ho delle antenne per la VHF, per la scopo. Ho bisogno di andare, il capo di divertirmi. Number diretto il massimo della frequenza di ingresso, non è arrivato a quello qua, 1300 e qua. Per forza fare un collegamento a lunga distanza, allora sei in caparecchio. E anche venisse sempre supportato dalla propagazione, e quello si rispetta. Magari si capitava una giornata di piazza, no? E noi magari non riusciamo neanche a ascoltarlo in Svizzera, e quindi tutte quelle giornate di preparazione dopo zero, e non senti nulla. Come un fattore passato da un'altra, ti accorgi che ci sono, c'è molta differenza.